È giovedì. Quasi tutta la settimana c'è passata tra le dita. Non è male questo, eh? Ci stiamo avvicinando al venerdì e di conseguenza al grande fine settimana rock and roll. Maloa, benvenuti e buongiorno. Questo è l'Early Bird Special. Io sono Chuck Bird con un sacco di grande musica da presentarvi e soprattutto qualche chiacchierina che ci faremo nel corso della trasmissione. Vi porterò fino alle 7, momento in cui inizierà pane, burro e rock and roll. Ma come al solito non bisogna correre, perché abbiamo con noi Generation X per iniziare Your Generation. Don't need a pity to me. Trying to forget your generation. Questa era la risposta che i Generation X diedero agli Who, che qualche anno prima, anzi diciamo un 10 anni buoni prima, cantavano My Generation. Early Bird Special. Buongiorno e ben svegliati, passerottine e passerottine care. Per voi la grande musica di Rock FM, una grande rock and roll band, The Boston. Boston, l'Early Bird Special, Rock and Roll Band. Da Boston a New York. Non è un grande viaggio in senso geografico, ma dai Boston ai Velvet Underground, beh, la distanza è di interi anni luce. Il primo album dei Velvet Underground, la band che portò alla ribalta Lou Reed, uscì nel 1967 e vi garantisco che prima di allora nessuno sentì nulla di simile sbattuto su vinile. The Velvet Underground e Nico, quello con la banana di Andy Warhol disegnata sopra per intenderci, era un disco che neppure i componenti della band credevano potesse uscire. Fu Andy Warhol, l'eccentrico artista newyorkese, che prese la decisione di registrarlo senza aver nessun tipo di contratto con una casa discografica, una cosa che prima di allora nessuno aveva fatto. Disse: facciamolo, poi lo venderemo a qualcuno. Questo significava due cose: la più assoluta libertà artistica e niente soldi. Intanto la band provava incessantemente per poter essere pronta a trasferire su nastro il loro sound unico. Qualche soldo arrivava intanto da un venditore di scarpe chiamato Norman Dolph, che era in contatto con uno studio chiamato Cameo Parkway sulla Broadway. Uno studio che costava veramente poco, ma quando la band c'entrò dentro scoprì che i pavimenti erano quasi inesistenti, che le pareti stavano letteralmente andando a pezzi. Ah, c'erano solo 5 microfoni funzionanti, per la cronaca. Mo Tucker piazzò la batteria in uno dei posti dove c'era ancora il pavimento, un angolino, in un angolo dello studio di registrazione. Eppure, nonostante la scarsità di mezzi, quello che uscì fuori dalle registrazioni è considerato ancora oggi come fondamentale per tutta la nuova musica che sarebbe stata prodotta negli anni 70, 80, 90 e anche oggi. E proprio da quel disco c'è una canzone che, ragazzi, ogni volta che l'ascolto mi vengono i lacrimoni. Questo pezzo è intitolato Sunday Morning. Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning, Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know. Velvet Underground con Lou Reed ancora giovanissimo, che a quanto pare non è che si divertisse un mondo. Mi ricordo di quel film Blue in the Face, mi pare si intitolasse, dove davanti alla camera da presa in Lou Reed in vena di confidenze confessava: la mia infanzia è stata così sgradevole che non ricordo nulla più o meno fino all'età di 31 anni. Chissà invece quanti ricordi avrà Ozzy Osbourne, se solo riuscisse a ricordarseli. Bark at the Moon. Sweet, sweet, the silence, waking from the the moon. Bark at the Moon, Ozzy Osbourne. Oh, mi farebbe un grosso piacere ricevere tutti i giorni delle belle email come mi stanno arrivando proprio ora. Potete farlo digitando sulla vostra tastiera bird@radiorockfm.com. Oh, il computer, oh, come vivremo oggi senza di loro. Ormai sono minuscoli, presenti in ogni luogo di lavoro e in quasi tutte le case. Eppure la prestigiosa rivista Popular Mechanics, prevedendo l'inesauribile marcia del progresso scientifico, nel 1949 scrisse: in futuro i calcolatori elettronici non peseranno più di una tonnellata e mezzo. E così, cari miei passerottini, le intuizioni del passato diventano in futuro solenni vaccate. Quello che non passa mai di moda è la grande musica, per esempio. Avete notato come sono invecchiati bene i Grand Funk Railroad? Seems I got to have a change in scene, 'cause every night I have the strangest dreams. Him sitting by the the way things used to be. Left here on my own, so it seems. I got to leave before I start to scream. Somebody locked the door and took the key. Feeling all right. I'm not feeling too good myself. Feeling all right. I'm not feeling too good myself. No! Love gone, love gone. Sono particolarmente cantereccio questa mattina perché è giovedì, stiamo piano piano arrivando verso il fine settimana. Oh, chi vedo zompettare allegramente per gli studi di Rock FM, la Dolce Sherry che quest'oggi veramente è vestita in una maniera superlativa. E scommetto che è anche la mia tazza di caffè nero bollente. Grazie, Sherry. Simple Minds, una band che apparteneva a quella corrente musicale che per comodità venne battezzata New Wave, ma alla quale partecipano band ed artisti con poche, pochissime cose in comune. Beh, se proprio bisogna citare un solo artista che influenzò buona parte di quei gruppi, dai Joy Division ad appunto i Simple Minds, quello è proprio David Bowie. E guarda caso, ho giusto appunto una storia da raccontarvi su David Bowie, il Duca Bianco. Beh, non tutti ricorderanno che David Bowie passò un lungo periodo della sua vita, durante la metà degli anni 70, letteralmente in balia della cocaina. Ne andava letteralmente ghiotto e spesso le sue azioni erano caotiche e involontariamente umoristiche. Insomma, ne combinava di tutti i colori. Una volta lo convinsero a presentare i Grammy Award, era il 1975, e a lui toccò premiare Aretha Franklin, la Soul Lady. Beh, sul palco delle premiazioni David Bowie fu esilarante, assolutamente sconclusionato, ben lontano da quel maestro della plomb a cui siamo abituati. Dopo il suo intervento, una rivista all'epoca lo descrisse come un Peter O'Toole sotto psicofarmaci. Ed ecco a voi questa meravigliosa cantante soul. Ma non è soula, ci sono qui io. Un anno prima si ritrovò a chiacchierare con Dylan. Parlò quasi sempre lui, cioè David Bowie, e quando finì era convintissimo di aver detto delle cose così importanti che probabilmente Bob Dylan le avrebbe utilizzate nelle sue prossime canzoni. Ovviamente Dylan la pensava molto diversamente, anzi pare proprio che Bob Dylan abbia vietato a tutti i componenti del suo entourage di organizzare altri incontri con il Duca Bianco. Un periodaccio, insomma. Beh, bisogna dire che ne uscì alla grande, riuscendo in seguito a produrre ancora dischi eccellenti come il fondamentale Heroes. Ma qui all'Early Bird Special vogliamo offrirvi un suo successo antecedente alla sua discesa nell'inferno della cocaina, l'incredibile Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That was no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Some man waiting in the sky. FM. Madman, drummers, bombers, and Indians in the summer with a teenage diplomat. In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat. With a boulder on my shoulder, feeling kinda older, I trip the merry-go-round. With this very unpleasing sneezing and wheezing, the Calliope crashed to the ground. Some old hot hat shot was heading for a hot spot, snapping his fingers, clapping his hands. And some flesh wild mascot was tied to a lover's knot with a whatnot in her hand. And now young Scott with a slingshot finally found a tender spot and throws his lover in the sand. And some bloodshot forget-me-not whisper daddies with an earshot, save the buckshot, turn up the band. And little Early Pearly came by in her curly whirly and asked me if I needed a ride. Oh, some hazard from her stumped on beers playing backyard bombardier. Yes, and Scotland Yard was trying hard. They sent some dude with a calling card and said, do what you like, but don't do it here. Well, I jumped up, turned around, spit in the air, fell on the ground, asked him which was the way back home. Bruce Springsteen, sempre gradito ospite qui all'Early Bird Special, perché ragazzi, non so se l'avete capito, ma qui abbiamo solo il meglio. Questa è Rock FM, in onda dalle 6 alle 7, Early Bird Special con il vecchio Chuck Bird, e dopo di me 24 ore su 24 di grande musica. Un altro esempio, John Mellencamp, Rock in the USA. USA, ma anche Rock in Italy. E se c'è del rock in Italy è per merito di Rock FM, ve lo garantisco. E se c'è del rock dalle 6 alle 7 del mattino è merito di Chuck Bird. Potete chiamarmi anche Chucky Boy, potete scrivermi a bird@radiorockfm.com. Journey con noi, Faithfully. Restless hearts sleep alone tonight, sending all my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. Right down. Forever yours, faithfully. Journey! Questo è l'Early Beer Special, la prima colazione che vi servo calda e fragrante tutte le mattine dalle 6 alle 7. Come va Passerottini? E soprattutto, come va Passerottini? Io sono Chuck Bird e vi accompagnerà fino alle 7, momento in cui subentrerà l'Ariele con Freak Anthony. E per il momento ribadiamo una cosa ben precisa e ben definita. Sono un uomo. I'm a man, Spencer Davis Group. I'm a man, yes I am, and I can love you, love you, love you. Com'è che fanno le parole di questa canzone? Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine, finalmente, finalmente, perché a questo punto ci sarà pane, burro, rock and roll con l'Ariele e Freak Anthony. Oh, tra l'altro Ariele quest'oggi ha un paio di Converse, forse è meglio che facciamo una collettina e gliene compriamo un paio nuove. Questi hanno fatto molti chilometri, eh? Da Chuck Bird è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e l'appuntamento è fissato per domani, venerdì dalle 6 alle 7, come sempre qui a Rock FM. Aloha!